volevo fare solo una piccola considerazione. Tannino e la Juve, non è che vedo questa squadra così della Madonna, nel senso pratico. Tutto il calcio minuto per minuto, signori e signori sportivi, amici in ascolti, buon pomeriggio qui dallo studio centrale, vi parla Roberto Bortoluzzo per solo le breve cronache del primo tempo con voi Cagliari. Sei in ascolto, Cagliari. Andiamo, corriamo, tutti a San Siro, si potrà così ammirare l'estro di giocate rare. Tutti convocati di Carlo Genta. Eh sì, amici miei. Eh sì, oggi voi protagonisti nella sigla, ma voi protagonisti per tutta la puntata, perché giurati 800240024 numero verde, processone al Milan. Avremo anche un paio di avvocati, uno professionale, l'altro più tifoso. Poi parleremo di tennis, perché c'è una notizia di cronaca importante, il sorteggio di Davis, abbiamo beccato la Croazia, iniziano i mondiali di ciclismo a Falkenburg e oggi c'è la cronometro, insomma tanti gli argomenti a disposizione vostra, cari amici convocati, 800240024. Ma prima di tutto questo partirei dalla notizia del giorno, che non è lo 0-0 orrendo di San Siro, per me è successa a Madrid, non sta neanche nella rimonta del Real di Mourinho, ma è in Liam Gallagher, cacciato dal Bernabeu, poi qui le versioni sono contrastanti. Allora, al primo gol del vantaggio del City con Dzeko è corso a bordo campo e ha baciato par uno steward, o una steward, ma sembra uno steward, l'ex Oasis. Poi, secondo la stampa spagnola, è stato cacciato perché ha dato in escandescenze. Secondo il Sun, invece, avrebbe abbandonato lo stadio perché rammaricato dopo il 3-2. Non è chiaro, però a quanto pare è stato pigliato per un orecchio Liam Gallagher e cacciato fuori. Dai, è meglio che il calcio italiano non guardi al passato con rabbia, don't look back in anger, appunto, o con troppa nostalgia. In fondo ieri sera, oltre ai fischi che avete sentito, ma a proposito, secondo voi questi fischi vanno più ad Allegri, cui sono stati oggi contati i giorni, o alla società che gli ha smontato la squadra? Anche questa è una delle risposte che mi aspetto. Ma senza troppa nostalgia, perché gli applausi ieri sera, gli applausi di San Siro sono arrivati quando sul maxi schermo sono stati proiettati i gol dello straripante Paris Saint-Germain di Carlo Ancelotti, gol di Ibrahimovic, di Thiago Silva, mentre il Milan in campo offriva lo spettacolo che avete visto tutti. Brilla altrove, purtroppo, il nostro calcio con gli ex in fuga, Ibra. Fatto gol grazie ai compagni, qua sto bene, sto molto bene, squadra ha giocato bene oggi, ha fatto un buon partita e un buon start, e speriamo di continuare. C'è anche Carletto Ancelotti che parla di Thiago Silva e del gol del brasiliano. Mi dispiace per il momento del Milan, credo che soprattutto Thiago Silva, la prima partita aver fatto gol, credo che è stato importante per lui. Dedicato agli interisti, Mourinho aveva promesso, vedrete in campo una squadra, tutti per uno, uno per tutti. È stata dura per le merengue, ieri sera 3-2 con il gol finale di Cristiano Ronaldo e tutto in rimonta, però ha avuto ragione. La domanda è ancora qui, se possiamo giocare così contro una squadra come City, se possiamo giocare così contro Barcellona in Supercoppa, perché non possiamo giocare così in tutte le partite. C'è anche, sempre dedicato agli interisti, che ha perso ieri sera questa meravigliosa partita del Bernabeu, e cioè Roberto Mancini. Sono dispiaciuti perché non capita di essere in vantaggio 2-1 all'85esimo e quindi ci dispiace. Forse l'errore che abbiamo fatto è stato andare troppo indietro quando abbiamo fatto il secondo gol e concedere troppo campo. E pensate un po', per girare il coltello nella piaga dei milanisti, ha segnato anche, come spesso capita, Klaas Untelaar. Oltvi dentro, pallone per Untelaar, palo e gol! Klaas Untelaar, sempre a caccia di gol, un minuto più tardi, lo Schalke trova il 2-1. C'è chi scrive che abbiamo beccato un pezzo degli Oasis in cui canta Noel Gallagher e non Liam, cacciato ieri dal Bernabeu, ma chi se ne importa. Era il titolo che ci piaceva, Don't Look Back in Anger. Adesso, allora, fatemi risentire quei fischi. Su questi fischi io saluto i due avvocati di oggi, uno professionale, professionista, giornalista inviata dalla Gazzetta dello Sport, Alessandra Bocci. Ciao Alessandra. Ciao, ciao. E l'altro, Fabrizio Fontana, dalla parte del tifo. Ciao Fabrizio. Ciao, che bei fischi, di solito sono gli applausi, gli spettacoli. C'è qualcosa sì. Che non va, mi sa. Che, allora parto da te, c'è qualcosa che non va, che cosa non va, quali difetti più evidenti? Da tifoso, con gli occhi del tifoso. Ma sei un'ora e mezza te li dico tutti, se no facciamo i pregi. Sì. Nocerino, che è l'unico che ci crede, corre. Insomma. Per dire. E Sharawi, che sì. Dà leggero movimento. Ecco, fine, punto. Alessandra Bocci. Ma non lo so, i difetti sono tanti. Pregi, io credo la crescita costante di De Sciglio, che ieri magari... più per l'andamento generale della partita che per i suoi difetti magari non è stato del tutto sufficiente, quello poi insomma diciamo una questione di punti di vista, però mi sembra che sia un dato di fatto. Anche Sharawi sta andando benino, però forse, come ho detto recentemente Allegri, gli si danno troppe responsabilità, ci si aspetta da lui quello più di quello che può dare. Io mi permetto, so che vado in controcorrente perché i tifosi lo detestano, però secondo me è uno dei migliori in campo ieri, non soltanto secondo me, anche secondo il collega Luigi Garlando che era con me a fare la partita, è stato Urbi Emanuelson, che non so per quale motivo gode di pessima stampa, è invece un giocatore che ha buona tecnica ed è l'unico che cerca di dare la palla agli attaccanti, di servirli anziché giocare per conto suo come fanno altri nel Milan. Fabrizio, hai dimenticato Emanuelson apposta o è una svista? No, sono tra quei tifosi che vorrebbe dei giocatori, prima di tutto che si impegnassero sostanzialmente, di base, cioè sì. Correre, seguire, se c'è un minimo di contropiede che la squadra salga, se c'è da tornare in difesa perché c'è un contropiede avversario, tornare, per esempio. Primo, crederci. Molte volte l'aspetto psicologico, soprattutto nel calcio, è determinante perché a pari tra di campioni o no, comunque la squadra, l'aspetto psicologico dei singoli e della squadra è quello che riesce a, in questo caso, a coprire delle lacune. Sì. Perché la squadra del Milan non è una squadra da Milan a oggi. Manca a me, anche quello. A me sembra proprio che non sia né una squadra da Milan né un'altra squadra. Mi sembra che non sia una squadra e mi sembra anche che... Alessandra Bocci oggi abbia scritto un Twitter molto, molto preciso, di cui ci sono conferme anche sulle agenzie. Alessandra, che Twitter ha scritto stamattina? Ti riferisci a quello su Allegri o Allegri, a quello su Allegri? Allegri. No, su Allegri, quello su Allegri. Vabbè, mi sembra che ormai c'è una fiducia a tempo e questo non credo che porti buone novità, perché un allenatore ormai... non mi pare che goda della fiducia dei tifosi, forse goda della fiducia della società ancora non so per quanto. È vero che Allegri insomma è sempre stato difeso da Galliani, però sappiamo che insomma Galliani non decide molto ma non tutto all'interno del Milan e perciò ci si aspettano probabilmente delle novità dopo Udine. Questo è quello che si pensa, diciamo che il proprietario del Milan non è soddisfatto di una situazione che è stata creata secondo me principalmente da lui stesso, certo. con la necessità di pensare Conte prima di altro. Nessuno, io almeno non gliel'ho mai contestata, nel senso che mette molti soldi nel Milan da molto tempo, può anche, ha tutta la libertà di pensare che non ne ha più voglia o che non può più. Sappiamo che ha anche altri impegni, diciamo così, ai quali far fronte. Però mi pare che le colpe, le colpe dell'allenatore siano molto leggere in questa situazione, ma sappiamo che il costume del calcio è questo, prima di tutti lo sa Allegri, quindi insomma vedremo cosa succederà, ma io non credo che Allegri sarà ancora a lungo l'allenatore del Milan. E l'agenzia che è uscita è questa, può essere quella di domenica a Udine la partita decisiva per il suo futuro sulla panchina del Milan. Nella notte Silvio Berlusconi e Adriano Galliani si sono sentiti al telefono, chissà chi ascoltava, e hanno deciso di concedere fiducia ad Allegri almeno fino alla trasferta di Udine. Chissà se c'erano le spie, chiamerò il mio amico Tavaroli. Fabrizio Fontana. 007, missione salviamo il Milan. Io non ho capito una cosa di ieri che ho chiesto un po' a tutti, perché sono stato pure allo stadio. Sì, chiedilo ad Alessandra. Ecco, voglio sapere questa cosa, ma sia come segnale, sia come semplice strategia tattica contro il signor normale Anderlecht, perché non avevamo due punte dall'inizio vere? Sostanzialmente perché almeno, perché probabilmente le due punte vere non sono considerate in questo momento in grado di giocare una partita così tesa e nervosa come quella di ieri sera. Le punte vere, come chiami tu, che adesso hai il Milan, sono due ragazzi, uno di 19 anni che in Serie B aveva fatto meno gol di Florenzi, e uno di 22 che sappiamo essere un grande talento e che però insomma non risulta, io non lo conosco personalmente ancora, ma non risulta avere una personalità schiacciasassi, quindi mi pare però, che questa sia. Io sono lavorato al boccone, ho fatto statistica e statisticamente un attaccante secondo me ha più, anche con tutti i limiti che hanno, ha più probabilità di segnare, visto che era un po' lo scopo del gioco di ieri peraltro, di Emanuelson, che non ricordo un numero importante di gol, Boateng, ma neanche poi tanto, insomma a livello di mettiamo questa squadra come segnale, casomai facciamo il contrario dopo, come segnale, come probabilità, mettiamo non lo so. Questa squadra come segnale, se poi prendi due gol cosa fai? Con lo stadio che già fischia con lo stadio che già fischia prima ancora che i giocatori entrino in campo, con lo stadio che applaude quando vede Ibrahimovic che segna su rigore, cosa fai se prende due gol? È chiaro, è logico, io sono d'accordo con te che non sia un segnale positivo, il problema è che sono tutti un po' in palla secondo me, e probabilmente anche l'allenatore, come e più dei suoi giocatori, ha paura di perdere. Questa è stata la cosa principale. Mi sembra che si veda a occhio nudo, perché il primo quarto d'ora è stato francamente imbarazzante, ma si vedeva proprio, sembravano quasi paralizzati. Io ho visto anche tantissime volte giocare Nigel de Jong con la nazionale olandese, sicuramente non è un fine dicitore, ma posso assicurarti che non è il giocatore che avete visto ieri. Sembra anche lui, non lo so, paralizzato, anestetizzato, ha paura che gli diano un cartellino giallo, ha paura che lo caccino, ha paura di non so, insomma, ma si vede che veramente io credo, al di là del tasso tecnico, che non è certamente del livello di quello delle squadre più forti d'Europa o d'Italia, però non credo che questa sia una squadra che possa perdere o pareggiare le partite senza segnare mai. Il problema è fortemente, secondo me, psicologico, e mi permetto di dire che l'ambiente di San Siro, anche se Galliani recentemente ha detto no, i nostri tifosi sono fantastici, ci vogliono bene, non c'è un problema ambientale, non mi pare che i tifosi li vogliano molto bene in questo momento. Puntiamo sugli autogol praticamente. Puntiamo sugli autogol nettamente. Speriamo che gli altri si facciano degli autogol, perché qui è allora dura. Giovanni su Twitter: qualsiasi allenatore con il Milan attuale non potrebbe andare oltre l'ottavo posto. Luca su Twitter: e questa è per te Alessandra Bocci, la punizione per Allegri sarà quella di essere nominato capo allenatore del Pisa. C'è anche giocato nel Pisa, guarda. C'è anche giocato. Sì, è un livornese un po' così, un po' no, ma un mezzo traditore, quindi potrebbe anche allenarlo dopo averci giocato. Ragazzi, vi chiedo ancora questo, a partire da Alessandra Bocci e poi Fabrizio Fontana. Quindi Alessandra Bocci chi sarà, Fabrizio Fontana chi vorrebbe come prossimo allenatore del Milan, sperando che Allegri riesca a risolvere questo grandissimo casino. Alessandra. No, non lo so, l'opzione della quale io, noi avevamo già parlato e scritto qualche giorno Pippo. Fa è no, Tassotti Inzaghi, questa strana coppia che sarebbe un po', diciamo, rappresenterebbe la continuità. Ricordo che Tassotti è il vice da 11 anni a Milanello, sono passati 3 allenatori, 4 anzi da quando è lì, perché ha lavorato anche con Cesare Maldini, e Inzaghi perché così è la nouvelle vague, però ricordiamoci che Inzaghi per ora ha diretto, se non sbaglio, gli allievi in 2 partite ufficiali, sì, forse 3, mi pare 2. Quindi insomma, sinceramente, la gente dice Stramaccioni, rispetto a Stramaccioni siamo ancora pochino più indietro, insomma siamo proprio agli albori di quello che potrà diventare un bravo allenatore. Però ecco, la soluzione prevista è questa, in attesa poi di capire cosa ha in mente Berlusconi l'anno prossimo, perché anche se sognarsi Guardiola tutte le notti, ma io non credo che in questo momento ma che Guardiola molto. Ma quale Guardiola e Guardiola? Fabrizio Fontana? Ma io ho 2 soluzioni. La Dille, prima 007 esatto, io che le so tutte, e la seconda Tavaroli. Propongo Tassotti, Boban e Inzaghi, così ognuno si occupa di una parte del campo. Perfetto. E la seconda è il mago Telma, che mi sembra più indicato appunto, per risolvere tutti i problemi del mondo. Grazie, grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie ad Alessandra Bocci. Ciao, buon pomeriggio. E a Fabrizio Fontana, io credo sia il modo più così divertente per affrontare problemi. In fondo stiamo parlando di pallone, anche se i tifosi del Milan sono francamente e giustamente preoccupati. Mexes che dice la squadra è con Allegri. Ieri sera ho sentito nel bordo campo El Shaarawy, che un po' imbarazzato, dire il mister, dicono in società che per il momento resta con noi, e leggendo tra le righe si capisce anche da questo, secondo me, il clima che c'è dentro quella squadra. Fabio Cantadori, fammi risentire quei fischi. Che non sono per me come molti vorrebbero, e non sono naturalmente nemmeno per Luca da Pordenone. Luca, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, niente, volevo fare un po' una puntualizzazione. L'anno scorso il Milan aveva l'opportunità di comprare Tevez e dare via Pato, e quella cosa lì è stata mancata. Sì. E secondo me lì il Milan poteva arrivare a vincere lo scudetto anche l'anno scorso. Condivido totalmente l'analisi di Alessandra Bocci sul fatto che era giusto iniziare con una punta, perché con un Milan così traballante potevamo prendere gol e allora sarebbe venuto giù lo stadio. Grazie. Con l'Anderlecht in casa, partita da vincere a tutti i costi, questa la dice lunga sull'autostima che questa squadra ha, e sul clima che c'è anche dentro quello spogliatoio, perché secondo me l'Anderlecht non vale l'Atalanta e non vale neanche la Sampdoria, diciamoci la verità. Michele, provincia di Bergamo. Salve. Salve, complimenti per la trasmissione. Dunque, secondo me Allegri non ha molte colpe, però sicuramente non ha dato gioco alla squadra del Milan. I maggiori responsabili sono Galliani, sì, e il presidente, che purtroppo, se non ha più voglia, sarebbe meglio che lasciasse, secondo me, e vorrei sentire il suo parere. Grazie. Lo si dice da molto tempo, è sempre stata smentita qualunque tipo di voce sulla cessione del Milan. Certamente la proprietà in questo momento non ha molti denari da investire nella squadra, il che non sarebbe nemmeno un male in valore assoluto, a patto di non raccontare bugie a nessuno e di non dire che questa è una squadra adatta a vincere. Le colpe di Allegri, secondo me, sono quelle di non aver provato a trasformare il Milan. Mi sembra che il Milan non sappia dove andare, che provi a giocare come l'anno scorso, quando c'era chi gli risolveva il problema del gol, quando c'era chi riusciva a tenere sul centrocampo in un'altra maniera. Questa è una squadra totalmente diversa, doveva essere totalmente diverso anche l'impianto di gioco. Non so, uno stile un po' più juventinesco, uno stile un po' più arrembante, uno stile eventualmente anche più prudente, più italianista, più fatto di corsa, più fatto di agonismo. Il Milan prova ad essere identico a se stesso, ma quelli che contavano, quelli forti davvero, non ci sono più. Simone, La Spezia. Buongiorno, signor Gente, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire che la differenza tra il Milan dell'anno scorso e quello di quest'anno è solo una questione di soldi e di uomini. Il Real Madrid ieri sera ha messo in campo come sostituti Ozil, Benzema e Modric. Vabbè, ma non esiste, non esiste il paragone, non si pone il paragone. Ma ripeto, è tutto legittimo, perché è tutto legittimo perché dopo 25 anni in cui Berlusconi ha messo in questa squadra molti soldi ed è tutto legittimo che debbo voglia tirare il freno, ma l'ho detto molte volte, l'unica cosa non condivisibile è che si dica: va bene, abbiamo preso De Jong che è un mediano olandese, abbiamo preso Pazzini scambiandolo con Cassano quando il Milan è evidentemente in debito di fantasia, Pato attualmente non so nemmeno dov'è, sul lettino di qualche chiropratico, Robinho è infortunato, ma anche con questi il Milan non vale la Juventus, non vale le prime 8 d'Europa nella maniera più assoluta. Alessandro, Firenze. Buonasera dottor Genta. Buonasera. Dica. Allora, io ero uno di quelli dei 20.000 che erano a San Siro ieri sera. Sì. E ha fischiato? No, non ho fischiato perché io ero un frequentatore della curva, adesso vado in tribuna, ma non ho fischiato perché amo il Milan esageratamente. Però le devo dire che non fischiava la curva e fischiava la tribuna. Lo so. Allora, la curva si è dissociata dai fischi. Allora, per esperienza, guardi, non le sto raccontando una bugia. La società foraggia la curva, ha comprato i capi ultra per non farsi contestare, questo glielo posso garantire, perché la curva ha sempre contestato anche per piccolezze, anche per stupidaggini, e la società ha comprato la curva. Non ho le prove, ma l'ascolto con attenzione, perché non mi sembra un'ipotesi. Garantire. Non solo, ancora noi non ci rendiamo conto, tanto ci riascolteremo, me lo auguro, in tutta questa stagione calcistica. Il Milan, se non sta attento, rischia la Serie B. Non siamo abituati a lottare per la Serie B. Sì. E ci mette del suo anche Allegri, perché insiste a far giocare Boateng trequartista quando Boateng non ha le caratteristiche del trequartista. O meglio, potrebbe avere le caratteristiche del trequartista in una squadra totalmente diversa come era quella dell'anno scorso, quando il problema del gol lo risolveva Ibrahimovic. E le caratteristiche fisiche di Boateng potevano dare in quel ruolo equilibrio alla squadra. Quello che dico io, e secondo me è la principale colpa di Allegri, che forse è il meno responsabile di tutti, è quello di aver ripresentato comunque lo stesso impianto di Milan senza gli stessi interpreti, perché hai tolto dal cast gli attori protagonisti e non puoi semplicemente sostituirli con degli altri che grandi attori protagonisti non saranno mai. Sperando che le cose si aggiustino, serviva una rivoluzione totale anche dal punto di vista del gioco e delle idee, ed è quello che non si è visto. Ma comunque io non credo che Allegri durerà molto su quella panchina, anche se secondo me è un ottimo allenatore, forse tratto un po' in inganno, forse avrebbe dovuto così fare un gesto di coraggio e dire: se volete rifondare questa squadra a me non va bene, faccio un passo indietro. Aveva appena firmato un contratto, non se l'è sentita evidentemente. Però non credo che durerà molto. Io credo invece che in società stiano già preparando la bacinella per lavarsi le mani, cambiare allenatore e arrivare così fino a fine stagione, come già d'altra parte è già successo in passato in annate nere del Milan. Paolo, Bergamo. Sì, ecco, mi riallaccio a quello che diceva l'ascoltatore di prima, che secondo me ci sono buone possibilità che il Milan possa giocare veramente per non retrocedere se, diciamo, la stagione va in una brutta direzione, oppure potrebbe fare un campionato divertente per i tifosi come me che amano vedere i giovani, ad esempio Di Sciglio, Esharawi e altri giocatori. È chiaro, purtroppo la situazione economica del momento non ci consente di avere le grandi stelle, però da tifoso penso che anche apprezzare la società. Non con questo impianto di gioco, però. Sì, ecco, quello è sacrosanto. Forse ci vuole, ecco, anche un allenatore. Perché mi perdoni, Paolo, oggi Stramaccioni è tornato a fare dei distinguo lessicali, no? Nella conferenza stampa che ha preceduto Rubin Kazan su sta storia delle provinciali, dicendo: non ho niente contro la locuzione provinciale che appartiene alla cultura italiana e del nostro calcio, mi ha dato fastidio perché magari sbagliando avevo notato una premeditazione nel taglio che si voleva dare alla nostra vittoria di Torino. Il giorno dopo ho chiamato Mondonico e mi sono scusato con lui perché la sua analisi era l'ultima delle tante e non ce l'avevo con lui. Ecco, io direi che un Milan di questo tipo dovrebbe essere certamente più provinciale, certamente puntare sui giovani, certamente avere un impianto, un assetto, una corsa, anche un'anima differenti. Dovrebbe essere provinciale per sfruttare le poche armi che ha. Non lo è, gioca come il Milan dell'anno scorso, di due anni fa, quando c'era chi era un grande campione e risolveva spesso da solo i problemi. Alfredo, Milano. Buonasera, dottor Genta. Buonasera. Senta, io premetto, non sono un tifoso di calcio, però mi piace guardarlo, mi piace sentirne parlare. E stamattina guardavo la Gazzetta e l'articolo di copertina citava gli spalti vuoti del Milan in contrapposizione a quelli pieni di Madrid. E io mi chiedevo, per questo lo chiedo a lei che sicuramente è più conoscitore, ma che cosa ci vuole alle società italiane per capire che il modello di business del tipo metto soldi, compro i giocatori e vado avanti non è più sostenibile? Sì. Il Milan, come dicevano anche gli altri interventi, no, probabilmente Berlusconi si è stancato di mettere denaro. Beh, Alfredo, ma io credo che l'abbiano capito, però non si cambia tutto in un attimo. Non si cambia tutto in un giorno. Io credo che l'unica società da questo punto di vista europea all'altezza delle europee di quelle importanti, anche se non ancora sul campo, sia la Juventus. La società che è riuscita a fare un passo verso il futuro è la Juventus. Tutte le altre si ritrovano alle prese con questi problemi che non creda conoscono benissimo, però non sono problemi risolvibili in un attimo, soprattutto se non ci hai mai lavorato sopra. Quindi io credo che lo sappiano, ma non riescano al momento a risolvere, neanche probabilmente, cosa più grave, a progettare un futuro diverso. Questa è la cosa più preoccupante e imbarazzante. Io vorrei invece girare pagina un attimo, poi torniamo sul calcio, abbiamo ancora da parlare di Juventus, perché notizia di cronaca, c'è stato il sorteggio oggi. E il nostro tennis, che ha vissuto una fine estate meravigliosa, ha trovato un'altra avversaria per il primo turno di Coppa Davis dopo aver battuto il Cile ed essere rimasto in Serie A. Allora io saluto e ringrazio il CT, Corrado Barazzuti. Buongiorno Corrado. Buongiorno a tutti. Ti sei preso la Croazia, giocheremo in casa, Cilic e Karlovic, gli avversari più pericolosi. Sì, giochiamo contro la Croazia in casa e devo dire che insomma è un sorteggio che comunque ci lascia con buone speranze, nel senso che è certamente una partita che noi giochiamo quasi alla pari, quindi uno sorteggio insomma davvero che ci lascia pieno di speranze. Senti, come hai vissuto questa fine estate meravigliosa con una coppia, con il derby di New York, le nostre due ragazze, tue due ragazze, perché sei CT anche della Fed Cup naturalmente, che sono ora per la prima volta nella storia in cima alla classifica del doppio, un Cile battuto da parte dei ragazzi in maniera autoritaria, se me lo consenti. Sì, beh, c'è grande soddisfazione da parte mia e sono veramente felice per questi ragazzi che stanno ottenendo questi risultati. Il tennis femminile continua a mietere dei risultati, continua a confermare quanto il livello di queste ragazze sia alto e dunque Roberta Vinci e Sara Errani sono la coppia numero uno del mondo, ma anche come doppiste le numero uno del mondo. Questo è un risultato importantissimo, era successo anche con Flavia Pennetta, ma non diciamo con una coppia tutta italiana. E abbiamo poi grandi risultati appunto di fine anno, sia di Sara Errani in singolare che diciamo la conferma di Sara Errani, perché sì, Errani voglio dire, sta giocando un anno straordinario, ancora non è finito, e poi invece il grande risultato, quello che un pochino forse mancava a Roberta Vinci, il grande risultato di un grande slam, sì, quarti di finale Flash in meno. Sì. E poi naturalmente questo diciamo nostro questa conferma nostra di insomma di rimanere in Serie A, questa vittoria con il Cile che insomma ci fa sperare bene appunto per il prossimo anno. Senti, abbiamo un problema di ricambio generazionale, perché questi ragazzi li conosciamo ormai da anni, li abbiamo visti crescere, anche vincere, soprattutto nel caso femminile. in qualche caso anche invecchiare, infortunarsi, Pennetta, Schiavone, eccetera, eccetera, certamente recuperabili, però esiste un problema di ricambio generazionale? Ma voglio dire, il ricambio rigenerazionale esiste sempre, perché noi abbiamo bisogno il più possibile, lo sport in generale ha bisogno sempre di più di giovani che crescano dietro anche grandi campioni giovani, insomma. Però Sara Errani è una ragazza che quest'anno è entrata nelle prime sette del mondo, perdendo davvero molto poco, ma ha 25 anni. Roberta Vinci ne ha 29, poi dietro di loro naturalmente ci sono delle altre giocatrici che stanno giocando bene, come Camilla Giorgi e come la Knapp e come la Burnett, sì. Quindi insomma abbiamo un bel vivaio, abbiamo delle ragazze che sembra crescano molto bene, e credo che tutti questi risultati importanti che sono iniziati con voglio dire i tempi indietro, appunto con la Farina, con Rita Grande, sì, con la Cecchini e la Reggi, e poi sono continuati con dei risultati straordinari appunto della Schiavone, Pennetta e fino a Sara Errani e Roberta Vinci. Questo è quello che serve appunto per poi avere un movimento giovanile dietro che cresce in fretta, certo. Quindi speriamo che insomma continui così. Nel tennis maschile abbiamo dei giocatori comunque che sono giovani, abbiamo dei giocatori appunto, perché insomma Fognini ha 25 anni, Bolelli ne ha 26, 27 ne ha Seppi, ed è uno zoccolo duro insomma di giocatori che comunque ci consente di pensare al futuro appunto con grande speranza, perché questi sono giocatori che possono sicuramente continueranno a crescere. Corrado, permettimi una battuta: hai strappato il tennis italiano dalle secche perenni, cioè chi fa il tuo nome per la panchina del Milan? vabbè sì, naturalmente sì, mi piacerebbe, però purtroppo sono impegnato con il tennis, quindi sarà per la prossima volta. grazie CT. Grazie a voi. C'è chi scrive: prima di far parlare gente che millanta conoscenze in curva sud, Milano dovrebbe pensarci bene. Io faccio parlare chiunque, perché siete tutti convocati per l'appunto e poi potete rispondere, avete anche diritto di replica sempre. Allora, io frequento la curva del Milan da 25 anni e le posso garantire che non abbiamo mai fischiato la squadra, abbiamo semmai contestato la società più volte negli anni. Le garantisco che l'ascoltatore toscano, che prima ha raccontato un sacco di balle, ci darà questa puntualizzazione già fatta a Umberto da Milano, e dunque non so com'è, ieri non è stata contestata né la squadra né la società, e mi sembra che in un momento così sia abbastanza strano. Allora, da dove ricominciamo? Fabrizio da Padova? Sì. Buon pomeriggio, grazie di avermi dato questa opportunità. Volevo dire, lei prima ha citato la Juventus come l'unica società che si avvicina al modello europeo. Io credo che la differenza tra Milan e Juventus in questi giorni sia il comportamento, in questi periodi, il comportamento delle proprietà rispettivamente alla situazione. Allora, la proprietà della Juventus non mi sembra che stia attraversando in questo momento un periodo splendente, eppure nonostante il core business diciamo del gruppo Agnelli stia andando male, continuano lo stesso a investire nella Juventus. L'avesse fatto Berlusconi in situazioni analoghe, chissà cosa sarebbe uscito. No, ma però Fabrizio, mi perdoni, io intendo la Juventus che ha comunque uno stadio nuovo, che ha comunque un nuovo modo di gestire il business sportivo, che è nuovo solo per noi ma che da altre parti esiste da un sacco di tempo, laddove non ci sono gli sceicchi che hanno disprato le carte, come si dice a scopa, laddove non ci sono delle realtà difficilmente replicabili come Barcellona e Real Madrid. Se guardiamo in giro per l'Europa, il modo di gestire il calcio è quello della Juventus, cioè non c'è più chi normalmente azzera le perdite staccando l'assegno, ma si provano altre strade, si prova a fare altri introiti e si prova un modo diverso di fare il calcio. Da questo punto di vista, quindi, non stiamo lì ad usare termini che non conosco bene fino in fondo, di cui non conosco il valore, come business, come merchandising, come tutte queste cose che hanno a che fare con la gestione di un'azienda, che incidentalmente è sportiva. Mi riferisco al modo differente, appunto, di gestire il sistema calcio. Bruno Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. No, io intervengo sul tennis. E fa benissimo. Sono un po' meravigliato dalle parole di Barazzutti, perché in realtà due cose, cerco di essere sintetico perché l'argomento è ampio. Allora, sul versante giovanile in realtà le speranze dal punto di vista femminile, tolta Camilla Giorgi, non sono molte, quindi questo mi spiace, lo deve dire probabilmente in ottica difesa della FIBA. Sì, campo però maschile... Bruno, però posso dire anche Sara Rani, anche Flavia Pennetta, anche Francesca Schiavone, non ci aspettavamo potessero arrivare dove sono arrivate. Esatto, questo è il secondo aspetto. Tutte queste giocatrici hanno o preso coach spagnoli o sono emigrate in Spagna per perfezionare i loro metodi di allenamento. Questo tende a passare molto sotto traccia, ma in realtà il successo del tennis femminile, che adesso sta con Fognini per cercare di essere replicato a livello maschile, si chiama Spagna e metodo spagnolo. Mi dispiace molto, ma questo passa molto sotto traccia. Ma lo dal si dice spesso. Invece, lo si dice spesso, cioè non è un segreto questo percorso. Spesso, ma purtroppo, per fortuna per noi, è il fondamento dei successi degli ultimi anni, perché Sara Errani fino all'anno scorso aveva fatto pochissimi exploit, quest'anno ha la qualità, è riuscita ad aggiungere la continuità che le è sempre mancata, però vabbè, questo è un altro aspetto. Sul versante maschile invece noi dobbiamo aspettare che Baldi e Napolitano e soprattutto Gianluigi Quinzi possano riuscire a replicare quelli che sono i buoni aspetti che stanno mostrando adesso nel circuito junior, soprattutto Quinzi, tra 2-3 anni, speriamo, ci sono buone possibilità. E quindi Barazzutti non era andato molto lontano dal vero nell'augurarsi la possibile crescita di questi ragazzi che rappresentano il futuro. Dunque, oggi entra nel vivo con una gara importante, adesso la faccio la Champions. Volevo farvi sentire Paolo Bettini, CT del ciclismo, sulla cronometro di oggi, grande favorito Tony Martin, ma ci sono anche i nostri Pinotti e Malori che possono fare qualcosa. Bettini: ritengo che sarà una crono un po' atipica, è una crono difficile soprattutto nell'ultima parte, nella seconda parte di gara, tantissimi cambiamenti di pendenza, tantissimi cambiamenti di ritmo, strade strette, per lunghi tratti sembra veramente di essere in un Amstel, in alcuni tratti dell'Amstel. Potrà uscire una bella crono, nel senso potrebbe essere incerta, se non magari per la prima posizione, dando per favorito Tony Martin, ma per le posizioni dietro sicuramente sì. I numeri della Champions. Allora, io mi sono tenuto in fondo Michele da Milano per farle una domanda, vediamo se sa rispondere. Se sa rispondere non vince niente, glielo dico subito. Ciao Michele. Buonasera, grazie per avermi dato questa possibilità. Allora, faccio pure la domanda. 5 allenatori presenti nella prima fase hanno già vinto la Coppa dalle Grandi Orecchie. Chi sono? Presenti nella prima fase hanno già vinto la Coppa dalle Grandi Orecchie. Tra quelli, sì, chi sono? Beh, io non sono molto appassionato di calcio. Comunque, Mourinho sicuramente. Sì, due. Guardi, passiamo alla domanda di riserva, vale. Ho detto io chiamavo per il tennis, quindi. E allora ci sentiamo domani, Michele, grazie. Ci sentiamo domani. Allora, Mourinho 2 volte, Ancelotti 2 volte, Hainkes, Di Matteo e 2 volte Ferguson. Ancelotti è l'unico ad averla vinta anche da calciatore. I numeri della Champions. In collaborazione con Unicredit. Ci fermiamo qui, Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantadori in regia, tutti convocati domani alle 14. Ciao!